L'Argentina ha vinto in Germania e mi pare che abbia vinto abbastanza bene. L'Inghilterra ha faticato, ma poi ha vinto la sua 500esima partita con una doppietta di Crouch. Il Brasile aveva già vinto la sera prima. Tu intravedi all'orizzonte mondiale un outsider o comunque non si esce da qua? Sto pensando però che l'outsider vero è la Spagna, che non ha mai vinto un mondiale. Esatto. Dal punto di vista storico l'outsider è appunto la Spagna, però sì, altro che outsider. Quindi si presenteranno gli spagnoli da campioni d'Europa e con serissime possibilità. Adesso non ricordo esattamente come sono gli accoppiamenti, però io penso che in questo momento, se il sorteggio non ci avesse lo zampino, chiunque giocherebbe su una finale Spagna-Brasile. Ma chissà, l'outsider potrebbe essere la vecchia Olanda, che è una squadra che almeno di vista offensivo rimane una formazione notevole, specialmente se riusciranno a recuperare Van Persie, perché hanno Van Persie, Kite, hanno chissà Huntelaar, ma hanno soprattutto uno come Sneijder, hanno Van der Vaart, quindi dal punto di vista offensivo sono una squadra molto forte. Poi si giocherà in Sudafrica, in un clima abbastanza fresco, quindi ideale per una squadra che per solito è molto atletica come l'Olanda. Per giunta si giocherà anche in altura, quindi chi dovesse avere più fiato potrebbe essere una squadra che finisce per emergere. Ecco, io forse indicherei l'Olanda, però se in questo momento mi chiedessero appunto di giocare una finale, direi Spagna-Brasile con l'Inghilterra, che ha però la grave incognita del portiere, perché veramente il Capello ha questo problema, cioè mettere tra i pali, chi mettere di decente tra i pali, ecco, con l'Inghilterra di rincorsa.